as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Il Pane e le Rose. Oggi parleremo di questioni metalmeccaniche, parleremo di automotive, di quello che sta accadendo in Italia in questo settore, ma in realtà sta accadendo un po' in tutta Europa. Abbiamo chiesto a uno dei segretari nazionali della FIOM, responsabile del settore automotive, Michele De Palma, è venuto il 18 dicembre nel direttivo della FIOM provinciale. Abbiamo colto l'occasione per poterlo intervistare e fargli tutta una serie di domande che avevamo da tanto. Adesso ascoltiamo un bellissimo pezzo e poi ascoltiamo l'intervista con Michele De Palma e ci sentiamo per le conclusioni. A dopo. Run it. We are gonna pretend them. No money, no reason why I surrender. Allora, oggi qua il direttivo della FIOM, abbiamo la fortuna di avere con noi Michele De Palma della segreteria della FIOM, qual è responsabile del settore automotive in Italia. Sappiamo tutti quanti la situazione Stellantis. Oggi c'è stato lo sciopero a Pomigliano. Parlaci un po' dello sciopero, di quello che è successo, come mai si è scioperato. Si è scioperato perché è diventata insostenibile la situazione per i lavoratori, perché dare ogni volta il senza lavoro quando le persone arrivano ai tornelli è un atteggiamento incomprensibile ed inaccettabile da parte dell'azienda, perché può succedere che ci sia una mancanza di componenti, ma ha l'opportunità un'azienda di potersi organizzare e di comunicare per tempo alle lavoratrici e lavoratori che magari è sospeso un turno di lavoro. A fronte del fatto che l'azienda ha prodotto questo elemento, noi abbiamo fatto prima un'assemblea davanti ai cancelli e poi dopo abbiamo proclamato insieme ai lavoratori 2 ore di sciopero che si sono tenute stamattina e che hanno visto una straordinaria partecipazione. Per essere gli stabilimenti Stellantis di Pomigliano siamo intorno al 40% di partecipazione allo sciopero, che è un dato assolutamente molto importante. Allora, la questione dei mancanti è una questione che riguarda tanti stabilimenti Stellantis, non solo Stellantis, ma anche molti stabilimenti metalmeccanici, anche la Sever. Questa cosa qui, pensate, io so che c'è anche, dovete organizzare un coordinamento, Stellantis, c'è l'idea di estendere queste forme di lotta che sarebbero, oggi sono fondamentali. Ma io penso che sia necessario discutere sempre con i lavoratori nello stabilimento. E penso che intorno a questo c'è anche un altro problema che si sta determinando, che è quello dei dispositivi di protezione individuale. Abbiamo composto all'azienda, sia nei singoli stabilimenti sia a livello nazionale, il fatto di dotare le lavoratrici e i lavoratori del FP2 anziché semplicemente delle mascherine normali, nel senso che in questo momento c'è una ripresa delle iniziative e delle attività, ovviamente con la ripresa della produzione negli stabilimenti dove si lavora, perché giustamente facevi riferimento al fatto che spesso dobbiamo affrontare il problema della discontinuità della produzione. Il punto è che la flessibilità di organizzazione del lavoro non può essere scaricata soltanto sulle lavoratrici e lavoratori, ma se ne deve assumere la responsabilità l'azienda e deve mettere in condizione le persone di potersi organizzare. Oggi sentivo una cosa veramente interessante sul fatto che Stellantis fondamentalmente, come se avesse, non l'ha fatto in realtà, ha disdettato il CCSR, il contratto specifico della Fiat. Che succederà più avanti? Non lo ha disdettato, è ancora vigente, quest'anno scade, però la verità è che di quel contratto rimane, come dire, gli effetti negativi sui lavoratori, ma per esempio l'applicazione del World Class Manufacturing è di fatto stata messa in discussione nell'organizzazione di lavoro in tutti gli stabilimenti da parte del nuovo management. E quindi sarà, è del tutto evidente che la FIOM dovrà affrontare il tema contrattuale alla scadenza presentando una piattaforma di confronto con l'azienda. Ovviamente noi pensiamo che la cosa più importante in un contesto come questo sarebbe quella di riportare dentro un sistema contrattuale che è quello che conosciamo, insomma, che abbiamo appena rinnovato, da poco rinnovato, che è quello di Federmeccanica, o comunque di ridurre il delta che c'è oggi tra il contratto specifico e il contratto di Federmeccanica. Questo è fondamentale, speriamo che questa cosa qua si vada avanti e finalmente riusciamo a uscire da questa situazione gravissima che sappiamo da troppi anni, da tempi di Marchione che ci troviamo. Però il contratto è purtroppo, vigente, perché ma tutto è cambiato, l'unica cosa che è rimasta è un contratto che sta perdendo la propria, identità. Doveva essere un contratto che si estendeva anche al resto delle aziende della componentistica che lavorano per il gruppo Stellantis, questo lo abbiamo impedito nelle aziende della componentistica e ora, la crisi che sta attraversando gli stabilimenti Stellantis in Italia, il primo punto credo che dovremo discutere con i lavoratori sicuramente, ma anche con le altre organizzazioni sindacali, che prima di discutere il contratto bisogna discutere il futuro produttivo, visto che la maggior parte degli stabilimenti sono in cassa integrazione. Sicuramente. Parliamo di situazione produttiva oggi in Italia. Abbiamo letto che questo governo sta dicendo che non ci sono più le crisi, sono diminuite. Ci spieghi un po' questa situazione paradossale? Infatti le crisi non solo non sono diminuite, ma il governo ha introdotto con una circolare il fatto che per poter accedere ai tavoli ministeriali allo sviluppo economico bisogna avere almeno 250 dipendenti. Il che significa tagliare via gran parte del sistema delle imprese del nostro paese, che è fatto di piccole e medie imprese, anche quelle la cui proprietà è di fondi internazionali piuttosto che di multinazionali. Un esempio, Caterpillar, azienda che ha quasi 250 dipendenti a tempo indeterminato e ha un numero molto alto di lavoratori in somministrazione, quindi oltre i 250 sono il totale dei dipendenti dell'azienda, ma al Ministero fino ad oggi ci hanno detto che siccome i tempi indeterminati sono inferiori a 250, il tavolo deve essere affrontato con la Regione Marche. Ora potete immaginare, l'amministratore delegato di una multinazionale come la Caterpillar, ad un tavolo quali sono i rapporti di forza con il presidente, come istituzione di questo paese, con il presidente di una regione. È del tutto evidente che quindi è un'operazione di marketing politico, cioè impedire alle crisi di arrivare al tavolo ministeriale. Dall'altro vi faccio presente che una parte delle crisi che c'erano o si sono risolte con accordi fatti grazie all'attività dei lavoratori, al sindacato, penso all'evoluzione in questo momento in corso sulla ex GKN, oppure drammaticamente, come invece è successo ai lavoratori dell'Embraco, che ne so io, oppure della Gianetti Ruoti, in cui le vertenze si sono concluse, sì, ma si sono concluse col licenziamento dei lavoratori. Ecco, io non andrei fiero, diciamo così, del fatto che ci sono soltanto 60 tavoli, eppure il problema è che molti altri, tra l'altro, rischiano di inapirsi senza delle politiche industriali. Per noi metalmeccanici questa è davvero una presa in giro, è scandaloso quello che tu ci stai raccontando. Parlando di GKN, noi l'abbiamo seguita, sono nostri compagni, siamo sempre con loro, a fianco a loro. Sappiamo tutto quello che ha fatto la FIOM per la GKN, anche il tuo ruolo in questa vertenza. La legge sulla delocalizzazione che i compagni della GKN hanno portato. Purtroppo Orlando, il governo ha risposto con una legge che io ritengo scandalosa. Cosa ci puoi dire dal punto di vista? Che è stato marketing politico, propaganda elettorale dire che hanno fatto un decreto sulle delocalizzazioni, che impediscono le delocalizzazioni. Hanno semplicemente reso intellegibile alle imprese una procedura per permettere di poter chiudere in tempi certi gli stabilimenti. Diciamoci la verità, se si voleva fare una procedura di questo tipo, cioè bloccare le delocalizzazioni, uno, lo fai con le politiche industriali, e due, lo fai utilizzando gli strumenti necessari per poter, come dire, mettere nelle condizioni il sindacato e i lavoratori di poter fare una trattativa, che è quello che è successo sulla vertenza della ex GKN, in cui si è trovato un investitore e ora dobbiamo negoziare al Ministero dello Sviluppo Economico le condizioni perché ovviamente ci sia invece la continuità produttiva oltre che occupazionale chiaramente dello stabilimento. Il provvedimento antidelocalizzazioni tanto sbandierato dal governo in realtà come dire, non solo non ferma le delocalizzazioni ma addirittura rende più semplice per le imprese organizzare. Scambia il fatto che semplicemente ci sono 90 giorni in cui l'azienda deve presentare questo piano, ma poi dopo i 90 può aprire la 223 e a quel punto, come dire, le porte dell'inferno sono spalancate. Noi pensavamo e continuiamo a pensare che una multinazionale, siccome lo programma per tempo, almeno un anno prima e in continuità occupazionale e produttiva, debba comunicare alle istituzioni e al sindacato l'intenzione di procedere ad una riorganizzazione, delocalizzazione o cessazione dell'attività per poter permettere una trattativa e anche di trovare magari le aziende che potrebbero reinvestire e garantire l'occupazione per quei lavoratori. L'ultima domanda che ti facciamo, noi abbiamo ancora un po' di tempo, noi ci teniamo tantissimo, il 16 è stato lo sciopero generale, è stato uno sciopero riuscito, la FIOM ha riempito le piazze insieme alla CGIL, è stato fatto insieme alla UIL, la CISL non ha partecipato. Nel merito, abbiamo sentito anche la Re David, le sue dichiarazioni, ci sono tutte. Come pensiamo di andare avanti? Ma io penso che dobbiamo andare avanti, innanzitutto siamo alla ripresa, come dire, partendo dalle situazioni più critiche che ci sono in questo momento. Noi abbiamo la necessità di affrontare le crisi che ci sono, industriali, e impedire licenziamenti, penso ai lavoratori della Saca Coffee su questo territorio. Ma poi dopo contemporaneamente anche aprire una stagione contrattuale che punti alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi sono in una condizione di precarietà, come del resto intervenire sulle questioni che riguardano la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, penso al tema dei protocolli e all'altra quella dei break formativi in applicazione del contratto, e implementare e allargare la contrattazione di secondo livello a 360 gradi. Questo permette una maggiore consapevolezza da parte dei lavoratori e rompere questa prigione dell'individualismo e del corporativismo che rischia di essere la cifra di un tempo sbagliato in un tempo di pandemia e di condizioni economiche particolari, anche perché in questo momento l'aumento del costo dell'energia sta generando una inflazione che rischia di divorare, come dire, i rinnovi dei contratti, la contrattazione di secondo livello, le indennità di cassa integrazione. e quindi di peggiorare complessivamente non soltanto la situazione dei lavoratori, ma anche complessivamente quella del paese, perché se perdi potere d'acquisto non c'è neanche mercato interno. Certo, però la mobilitazione del 16 nel merito contro il governo Draghi è stata fatta, perché non eravamo d'accordo su molte cose. Il governo Draghi non ha fatto nessun passo avanti. Come pensiamo di rispondere a questo atteggiamento del governo Draghi? Ci saranno delle mobilitazioni, coinvolgeremo i lavoratori con delle assemblee, cercheremo di coinvolgere di nuovo la CGIL. Guarda, io subito questo ti dico, per quanto riguarda il settore che io coordino, cioè il settore dell'automotive, che sta passando una crisi dal punto di vista noi abbiamo aperto un percorso. Stiamo facendo assemblee con i delegati in tutte le regioni, che se il governo non ci convoca ad un tavolo in cui affrontare il futuro del settore attraverso un piano straordinario, una delle prime mobilitazioni, io spero che la mobilitazione sia di carattere unitario, anche se in questo momento, come dire, il percorso è stato aperto dalla FIOM, vorrei che fosse confederale, con la partecipazione anche della CGIL, perché quando parliamo di automotive non stiamo parlando solo di metalmeccanici. Certo. Per poter arrivare ad una mobilitazione che finisca anche con una manifestazione sotto il Ministero dello Sviluppo Economico. Tu facevi riferimento a una questione di carattere più generale. Io credo che quella una buona occasione per discutere tra di noi, nella categoria, ma anche col livello confederale, saranno i prossimi appuntamenti che abbiamo a partire dalla conferenza organizzazione. Perché la cosa che deve essere chiara è che abbiamo costruito un patto con i lavoratori e quel patto dobbiamo portarlo avanti. Ok, ti ringrazio, siamo d'accordo con te e ci vedremo in questi, solamente in questi appuntamenti ci saremo anche noi. Grazie Gianpaolo. Of Babylon to the promised land, Mount Zion, Mount Zion, Mount Zion. Zion High is the place for I and I to dwell. Fire, fire, fire, I go burn Babylon, but this is a living hell. So gather your baby. Far away, far, far away. I am. Rasta children, I and I are Rasta children. We come from Zion, we come from Zion. Rastafari coming from Mount Zion, holy Mount Zion. I and I are Rasta children, I and I are Rasta children. We come from Zion. Siamo di nuovo qui al Pane e le Rose, pezzo fantastico, reggae abbiamo ascoltato adesso. Prima del pezzo, chi era collegato ha potuto ascoltare l'intervista fatta il 18 dicembre a Michele De Palma, della segreteria della FIOM nazionale, il responsabile del settore automotive in Italia, per quanto riguarda la FIOM. Ci ha raccontato lo sciopero di Pomigliano, uno sciopero importante, finalmente si sciopera in Stellantis. Sono in una situazione molto particolare in cui i mancanti stanno facendo lavorare tutti i lavoratori a singhiozzo, ci sono delle casse integrazioni, poi si fanno gli straordinari, sono stati licenziati un sacco di interinali in tanti stabilimenti, poi di nuovo sono stati ripresi a centinaia, insomma c'è una situazione schizofrenica, le notizie che arrivano non sono per niente confortanti, il caro energia sta complicando tutto e chiaramente i lavoratori sono stufi e sono scesi in sciopero. C'è stato in queste settimane, quello che diceva Michele De Palma, una serie di attivi per quanto riguarda i delegati dell'automotive, della FIOM, in cui hanno discusso di come agire, come reagire in questo caso verso Stellantis. Il problema di Stellantis non è solo di Stellantis, l'automotive ha un indotto mostruoso e non riguarda solamente i metalmeccanici, ma un indotto che affronta tantissime altre categorie. C'è una esigenza di generalizzare le lotte in quel settore, l'ha spiegato benissimo Michele De Palma e speriamo che si farà questo, anzi è una necessità impellente, non possiamo non affrontare questo problema. Stiamo parlando del primo settore metalmeccanico oggi in Italia, parliamo di aziende con migliaia e migliaia di dipendenti e con degli indotti di centinaia di migliaia di dipendenti. Però c'è tutta la questione legata allo sciopero di cui abbiamo parlato con Michele De Palma del 16. Uno sciopero finalmente proclamato, sciopero generale, che purtroppo Draghi ha fatto finta che non c'è mai stato. In realtà i giornali, se vi ricordate, hanno attaccato quello sciopero, hanno cercato fino alla fine di non farlo fare. La CISL si è divincolata e solo la UIL e CGL sono rimaste a scioperare, ma tutte quelle vertenze, il merito di quello sciopero sono tutti rimaste lì. In realtà sono anche peggiorate in un certo senso, perché la riforma fiscale iniqua che aveva portato la CGL e la UIL a scioperare è ancora peggiore, visto che il calo dei prezzi e l'aumento dell'inflazione ha fatto sì che questa ridicola mancia che viene data ai lavoratori da Draghi, invece per non parlare di tutti i soldi che vengono versati ai padroni, fa sì che questa ingiustizia grida vendetta. De Palma faceva riferimento al fatto che ci incontreremo per quanto riguarda il congresso di organizzazione. In questo momento in CGL è in atto il congresso di organizzazione con tutte le difficoltà del caso, visto che c'è il Covid che dilaga. E qui si deciderà anche non solo la nuova struttura della CGL, ne abbiamo parlato in alcune puntate, ma si deciderà anche come tenere fede al patto con i lavoratori. Ha ragione Michele De Palma, abbiamo fatto le assemblee in tutti i luoghi di lavoro, purtroppo la CGL in molti luoghi non l'ha fatto, forse in alcune categorie si sentono un po' svincolati da questo patto, ma in realtà questo patto esiste anche per quelli che non hanno fatto le assemblee. Questo patto è chiaro: nel momento in cui si chiede di far sciopero ai lavoratori per alcune questioni e queste questioni non vengono risolte, bisogna andare avanti. Ne va della credibilità del sindacato. Io spero che se ne esca fuori da questa situazione, che questa conferenza di organizzazione venga fuori una CGL che rispetti i patti con i lavoratori e si ricominci a lottare, perché tutte le questioni che il 16 sono venute fuori sono tutte ancora lì. Nessuna è stata risolta e bisogna continuare nella lotta. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Siamo qui sempre al Pane e le Rose, mi raccomando, seguiteci, ascoltateci e supportate noi e supportate la causa della classe operaia. Prima che ce ne sarà che